Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La pianura, si sa, aiuta qualsiasi pedalata. E così deve essere anche per il mio ragazzo dai capelli rossi. E così oggi sarà. Oggi non è solo un regalo. È il giorno della sua piccola indipendenza. Del potere finalmente dire: mamma, esco con gli amici a fare un giro. Ciao a tutti, sono Patrizia, sono di Novi di Modena. Ho un negozio di alimentari nel paese, fra l'altro avviato proprio dopo, appena dopo il terremoto. Mio figlio è Valerio e lui vive su una sedia a rotelle. È vero che questo non è il paese, diciamo, più amichevole per quelli che vanno in bicicletta, però la bicicletta è per tutti l'inizio di una nuova vita, quando a pochi anni si comincia ad andare in bicicletta, prima con i pedali, poi senza, e quando si è senza pedali si può cominciare a uscire anche senza i genitori, e quella sensazione di libertà lì che dà la bicicletta è una sensazione unica, che è quasi rivoluzionaria. E poi la bicicletta accompagna la vita delle persone, alcuni semplicemente la abbandonano, salgono su una macchina e morta lì, e altri invece se la portano dietro o la riscoprono con l'età, anche se le città italiane non sono proprio facili da gestire con una bicicletta, o forse il contrario, le biciclette nelle città italiane non sono proprio facili da gestire. Oggi però parliamo di bicicletta, anche se la bicicletta di Valerio, il figlio di Patrizia, è una bicicletta molto speciale, perché lui, come racconta lei, è un figlio speciale, è il suo primo giorno in bicicletta, è stato speciale. Oggi parliamo un pochettino di tutte le volte che avete fatto un giro in bicicletta, ma in particolar modo della volta in cui avete fatto il giro in bicicletta più lungo che abbiate mai fatto. 349-238-6666, che si trattasse di una vacanza o si trattasse di lavoro, ad esempio, se siete stati dei ciclisti professionisti o di hobby, se invece siete stati ciclisti dilettanti o amatori. 349-238-6666. Qualcuno mi scrive sul profilo Facebook: ho girato in bicicletta il Cammino di Santiago, ma si può fare anche in bicicletta, 820 km. Oppure Cesare: Sarzana, Ortisei e ritorno, bici e tenda, la settimana di vacanza più bella della mia vita. Padova, Spongano, Puglia, sola andata 1021 km in 6 giorni, tutti in mountain bike con bagaglio e tenda al seguito, stupendo. Giorgio: tutti i castelli della Loira, da Orléans a Nantes e Isola di Yeux. 349-238-6666. Avete preso la bicicletta? Gli avete caricato sopra tutti i bagagli che erano necessari? Oppure no, avete caricato solo l'indispensabile e siete partiti? Dove siete andati? Quanto è durato? Con chi eravate? Se eravate da soli o con qualcun altro? La gita più lunga che avete fatto in bici, anche se si tratta solo di essere andati dal Duomo di Milano a Pavia ed essere tornati lungo la ciclabile che corre lungo Naviglio, è il giro più lungo che avete fatto in bicicletta. E più tardi, speriamo di riuscire a recuperarlo, al telefono dovremmo avere un signore che adesso ha 85 anni, che si chiama Valentino di nome, Rolando di cognome, e che 60 anni fa faceva il giro più lungo che si possa immaginare in bicicletta, il giro del mondo. Adesso qualsiasi libreria, ma spesso anche in radio, no? Si sente parlare di quelli che fanno il giro del mondo in barcavela, a piedi, in tir, con un triciclo, con un passeggino, con una canoa. Non ha girato il mondo, ma Alex Bellini, l'abbiamo sentito, ha attraversato l'Atlantico e il Pacifico coi remi. Quindi non dico che si sia assuefatti, però si è un po' abituati a sentire parlare di giro del mondo in. Ma stiamo parlando del 1956, quindi quasi 60 anni fa. È un ragazzo di Torino che a 29 anni, insieme a un amico, decide di partire per fare il giro del mondo in bicicletta, e decide di partire senza dirlo a casa. È una storia magnifica che vi racconto più tardi direttamente con lui, col protagonista di questa storia, che si chiama Valentino Rolando, è un signore di 85 anni che vive a Torino. Adesso invece sentiamo la storia di Patrizia, che è anche e soprattutto la storia di Valerio, che parla di bicicletta e di quella sensazione lì, di quella sensazione di libertà che dà soprattutto quel mezzo lì con due ruote. Esistono oggetti che rientrano immediatamente in un contesto ben definito, un'associazione di idee che il nostro cervello abbina immediatamente. Insomma, per chiarirmi, se uno vede una torta a piani, subito pensa a un pranzo di nozze, no? Per me, Forse per molti della mia generazione di provinciali quarantenni, il giorno della prima comunione diventa subito il giorno della prima bicicletta nuova. Beh, mi ricordo che era un giorno di festa, circondato dai nonni, in particolare dai parenti, e appunto si aspettava quel giorno perché, bene o male, tutti veramente quelli della nostra età hanno ricevuto la bicicletta, no? Quindi si attendeva quel giorno con ansia, perché poi potevi far vedere agli amici che avevi la tua prima bicicletta nuova. A me è toccato così. La mia prima comunione mi aveva portato una sfavillante Graziella, così si chiamava, rigorosamente bianca. Il colore non si discuteva perché così doveva essere ritenuta una perfetta signorina, con la Graziella bianca. Guardavo con curiosità tutte le altre biciclette, colori fuoco da battaglia, selle lunghe. Già mettevano le carte da briscola sui raggi delle ruote per fare rumore. Erano per lo più bici da cross, aggressive come la cavalleria d'assalto. Erano quelle dei maschi. Valli a capire. Io avevo il mio piccolo docile cavallo bianco. E avevo anche il cestello, un fantastico cestello davanti al manubrio. 25 anni sono passati da allora. E non saprei proprio dove è finita quella sfavillante bicicletta bianca con cestello davanti. Probabilmente una fonderia l'ha già ingoiata da tempo. Oggi è a quella di mio figlio, la bici a cui devo pensare. Oggi per lui è arrivata la prima comunione, quindi bicicletta nuova. Mio figlio è speciale. Ora sfido qualsiasi madre a dichiarare il contrario del proprio figlio, ma se vi dico che mio figlio Valerio è veramente un bambino particolare, non lo dico solo per egocentrismo di madre. All'ospedale, quel giorno di settembre, mi dissero di un problema dopo pochi minuti dalla nascita. Insufficienza cardiorespiratoria. Non capii. Io volevo solo prendere in braccio quel piccolo essere dai capelli rossi. Un rosso Ferrari, pensai quando lo vidi. Forse farà il pilota, pensai. Ed è buffo ricordarlo ora. Sono passati 10 anni da quel giorno. Da quel giorno che rimane e rimarrà sempre il più bello della mia vita. Ma con quello che successe quella mattina, oggi io non posso permettermi di regalare a mio figlio una normale bicicletta. Valerio non riesce a coordinare i movimenti dovuto al fatto che dopo la nascita, dopo 3 giorni, ha avuto un distress respiratorio e quindi gli è rimasta una lesione cerebrale. I suoi amici già cavalcano le bici dei loro genitori, le buttano sul marciapiede e una volta stanchi di pedalare proseguono con i mezzi che natura ha dato loro, le gambe. In questo tranquillo paese di campagna dell'Emilia, il giro in bici è parte della crescita di ogni ragazzo. La pianura, si sa, aiuta qualsiasi pedalata. Così deve essere anche per il mio ragazzo dai capelli rossi e così oggi sarà. Oggi non è solo un regalo, è il giorno della sua piccola indipendenza, del poter dire finalmente «Mamma, esco con gli amici a fare un giro!». Ecco, oggi la solita faticosa presa per sollevarlo diventa un caloroso abbraccio e anche un saluto. Oggi, il giorno della sua prima comunione, sento nel cuore quell'emozione che tutti i genitori hanno nel vedere i primi passi dei loro nati. Valerio è seduto sulla sua bicicletta speciale della prima comunione. Ha 4 ruote, motore 4 cavalli, velocità 10 km all'ora, un sistema antiribaltamento e un imperativo clacson. No, non mi ero sbagliata quando l'avevo visto quel primo giorno di vita. È un pilota nato. Il suo sorriso è il mio di 25 anni prima, sulla mia Graziella bianca. Io caddi quel primo giorno, lui no. Lui già sfreccia, veloce e sicuro. Ehi, sto qui, aspetto, guarda. Scalpitando sui miei sandali, da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento, appaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. La bicicletta è a tutti gli effetti un oggetto rivoluzionario. Lo è da un punto di vista pubblico e lo è da un punto di vista privato. Lo è stata appena è nata, quando è stata inventata, perché permetteva un'indipendenza di movimento che le gambe non avevano. Poi lo è stato in Italia, dopo la guerra, quando i soldi nelle tasche erano pochi e la bicicletta era più accessibile dell'automobile o della motocicletta. È tornata ad essere un mezzo rivoluzionario oggi, in un momento in cui il prezzo della benzina è alle stelle e l'inquinamento è tale che produrre meno CO2 farebbe bene a tutti quanti. La città, o almeno quelle più intelligenti, hanno spazi ad hoc e piste ciclabili sicure per permettere l'uso di questo mezzo di locomozione. Ma la bicicletta è un oggetto rivoluzionario anche per la vita privata di ognuno di noi. In tutto il mondo la vita di un individuo si divide in due, con e senza le ruote. I primi anni sono quelli in cui impari a camminare e poi, dopo poco, i tuoi genitori ti infilano una bicicletta sotto il sedere e prima con due rotine di supporto e poi accompagnandoti con una mano appoggiata sulla schiena, ti insegnano una cosa che ti sarà utile per tutta la vita. Anche se ha più di due ruote e ha un piccolo motore, quella di Valerio è a tutti gli effetti una bicicletta. E lo è proprio per quello che sua mamma, Patrizia, dice, perché gli dà libertà, gli dà indipendenza e la possibilità di dire «Mamma, esco con gli amici a fare un giro». Io ho cercato di immaginarmi le sensazioni di Valerio quel giorno dopo le prime pedalate e mi è venuto in mente il momento in cui io a 5-6 anni mi sono trovato davanti alla mia Salta Foss nuova di zecca e ho chiesto a mio papà di non aiutarmi. Ho fatto un respiro e ci sono salito sopra. Con la gamba destra scavalco la canna, mi sistemo sul sellino, metto il piede sul pedale e mi rendo conto all'improvviso che sto per vivere per la prima volta una sensazione che proverò poi migliaia, forse milioni di altre volte in futuro, la sensazione della prima pedalata. Spingo il pedale sul pedale e stacco l'altro da terra. Per un attimo sono nel vuoto, ondeggio. So che cadrò se non faccio qualcosa, d'istinto mi piego in avanti e pedalo più forte. La bici si raddrizza, aumentando di poco la velocità a ogni metro. Arrivo fino alla fine del marciapiede, giro l'angolo e continuo, sempre più veloce. Il suono delle carte che sventagliano fra i raggi è il suono più esaltante che io abbia mai sentito. Mi sento un dio, mi viene da alzare le braccia al cielo, come se avessi vinto il Tour de France. Lo faccio. Il manubrio si piega leggermente a destra, la ruota fa perno e io cado. Sono a terra con la bicicletta sopra di me. Non mi sono fatto niente ma piango, perché è la prima volta e posso piangere, almeno ora che sono piccolo e sono caduto dalla bici. In futuro temo che non potrò farlo mai più. Io e mio amico abbiamo fatto Vicenza, provincia di Vicenza. No, mi sa che è Breganze. Cioè, così a orecchio, un po' Breganze. Vabbè, ho fatto anche il Veneto, quindi adesso mi arriveranno, mi massacreranno di SMS. Comunque, ho fatto lì da Breganze, Vicenza, all'isola di Kirk, in un giorno, 360 km di bici in 19 ore, Gaetano. Da Trieste all'isola di Veglia, in Croazia, ritorno, 280 km in due giorni, massimo da Trieste. Ma uno che si è fatto 100 km in una settimana? 30 anni fa, 17 anni, 6 amici, 6 bici cariche, 10 giorni da Vicenza al mare di Lignano. Tutti da lì partite, ragazzi, tutti da Vicenza, è un ritrovo, è un punto di partenza. Da Vicenza al mare, dalle montagne, dal mare alla montagna della Carnia, fino al Cadore dall'Alto Adige. Costo totale vacanza 60.000 lire. Erano anche 30 anni fa, però 60, insomma, non c'è da pagare la benzina. 349-238-6666, la vacanza più lunga che avete fatto, o il giro più lungo che avete fatto in bicicletta. Non so ancora quale sia il giro più lungo che ha fatto in bicicletta Valerio, ma sicuramente il suo primo giro se l'è già fatto. Pronto, Patrizia? Sì, pronto, ciao. Ciao, come stai? Abbastanza bene. In realtà sei un po' raffreddata, possiamo ammetterlo. Sì. Quindi ogni tanto ci saranno dei colpi di tosse durante questa telefonata, ogni tanto. Ma saranno l'ultimo dei problemi. Dov'è Valerio in questo momento? Valerio ti sta ascoltando dal computer. Ok, quindi è tipo in camera sua? Sì, sì. Allora salutiamo Valerio. Ciao Valerio. Dov'è la sua bicicletta adesso? È sul pianerottolo, perché quando viene a casa da scuola, noi abitiamo al secondo piano, quando viene a casa da scuola sale con il servoscala, poi in casa gira con una sedia a rotelle manuale, la gestisce. Quindi però sulle scale ci sale con la sua bicicletta, sì, insomma. Sì, sale con la sedia a rotelle a motore. Quando il racconto risale prima comunione dello scorso anno, giusto? No, di 3 anni fa. Ah, 3 anni, ma non l'hai scritto 3 anni fa però? No, ce l'hai mandato, perché perdo un po', siccome siamo molto avanti, cioè siamo indietro con la lettura dei racconti, perdo di vista. No, non è stato scritto 3 anni fa. Ok. Quindi era, cos'era, maggio? Quando si fa la prima comunione? Il 1° di maggio di solito, no? Si fa in maggio, adesso non mi ricordo di preciso quando l'ha fatta lui la data, però era maggio. Senti, ma se l'aspettava lui sto regalo o è stata una sorpresa? No, se l'aspettava perché era prima di farla arrivare, sono state fatte prove su prove, perché deve essere fatta proprio su di lui. Certo. Non si aspettava che arrivasse quel giorno magari, però sapeva che doveva arrivare. E senti, la sensazione chiaramente tra quella e la sedia a rotelle che usa abitualmente è tanto diversa, lui la racconta, cioè si capisce che sensazione c'è di andare in giro con quella cosa lì, che va più veloce, immagino, no? Va 10 km all'ora, sono tanti. Anche perché lui è un po' un pazzo. Quindi più va forte e più, se potesse, andrebbe ancora più forte. Sì. No, è la sua autonomia, certo. Sono le sue gambe. Senti, quanto la usa? Cioè, ci riesce ad andare da casa, a scuola? O... Guarda, ti dico soltanto una cosa. In 3 anni e mezzo ha fatto 3.500 chilometri. Ma manco un agente di commercio fa 3.500 chilometri con una macchina. Ma perché ha un conto a chilometri anche? Sì, ha un conto a chilometri. E quindi cosa fai? È elettrica, giusto? Quindi l'attacchi alla corrente? Sì, va messa sotto carica. E ha un'autonomia, da nuova aveva un'autonomia circa di 30 chilometri. Adesso molto meno. Quanto dista la scuola? Ha 2 batterie, sì. C'è da fare il cambio gomme come in Formula 1. Sì. Quanto dista la scuola? Dunque, adesso che hanno ricostruito le scuole, dista circa 700-800 metri. Ah, ok, siete vicino. Perché quando erano in struttura aveva circa 2 chilometri da andare a scuola. Perché ricordiamo, Patrizia, che tu sei voi siete di Novi, di Modena, che è esattamente uno dei centri in cui il terremoto ha picchiato più forte. Sì. E tra l'altro, a questo proposito, mi raccontavi che voi avete cambiato attività professionale per diversi motivi, per stare vicino a Valerio, ma il terremoto ha dato un'accelerata alla vostra scelta. Assolutamente sì, ci ha dato l'input e abbiamo cambiato completamente lavoro. Perché voi prima facevate... Abbiamo orari un po' più decenti. Cosa facevate prima e cosa fate adesso? Prima facevamo i fornai, quindi voleva dire alzarsi alle 2 tutte le notti, sia io che mio marito. E adesso invece abbiamo un negozio di alimentari e quindi insomma... Si alza presto lo stesso, però a orari più decenti, lavorare verso le 6. E fate il turno? Fate dei turni diversi oppure andate insieme a lavorare? Sì, ma abbiamo la fortuna di avere i suoceri vicino, quindi abbiamo l'appoggio dei nonni. Ah, ok. Perché mi dicevi che diciamo non è stato intaccato il negozio, l'attività, non leggermente? Leggermente, con piccole opere di ristrutturazione, è stato messo agibile in breve tempo. Ok, quindi insomma si riesce a lavorare. Senti Patrizia, poi ti saluto. Che cosa vuole fare Valerio da grande? Se Valerio vorrebbe fare il cuoco, però purtroppo lui ne è consapevole che è impossibile, perché su una sedia a rotelle il cuoco non lo può fare, quindi sta guardando per un istituto tecnico con indirizzo informatico. Perché lui l'anno prossimo comincia le superiori, giusto? Sì. E la domanda bisogna farla entro quando? È il 28 di febbraio, quindi... Ah, quindi siamo lì, cioè tra un mese praticamente dobbiamo decidere. Sì. Dobbiamo, sì. Mi metto dentro come se fossi parte. Patrizia, guarda, ci sentiamo e decidiamo insieme. Patrizia, ti ringrazio per la chiacchiera e soprattutto per la storia. Valerio ci sta ascoltando, quindi lo salutiamo direttamente. In bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie per la disponibilità. Buona giornata. Ciao. Ciao Patrizia, ciao. Ho noleggiato direttamente in Francia una bici per fare il giro dei Castelli della Loira. Al secondo giorno me l'hanno rubata fuori da un supermercato. Ho dovuto ripagarla e così ho finito tutti i soldi delle vacanze. Quasi non riuscivo neppure a tornare in Italia. Basta bicicletta! Voi siete qui. C'è tutta la famiglia nella foto che ci ha mandato Patrizia e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. C'è lei, suo marito e Valerio, ovviamente. Sono su un... come si chiama? Non un terrazzo. Come si chiamano quei posti? Belvedere. Ah, quando mi viene la parola, eh?

16 novembre 56, ho incontrato oggi il signor Rolando Valentino e Sada Adriano, turisti dall'Italia, e spero per loro di avere un grande successo nel loro importante hobby in giro per il mondo in bicicletta. E poi chiude dicendo: presidente della Siria, è importante che tutti gli hobbisti si aiutino tra di loro. Una riflessione conclusiva così del presidente. Tra l'altro, una cosa che mi sono dimenticato di chiedere a Valentino era se avevano mai lavorato, ed effettivamente sull'articolo dice che loro in Iraq hanno lavorato per 6 mesi con un'azienda italiana, hanno tirato su un po' di soldi e poi sono ripartiti. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, che sono Fabio Cantadori, Margherita Ina e Tiziano Bonini. L'ultimo messaggio mi dice: Padova al Barella 70 chilometri, ignaro che i miei amici si allenavano ogni weekend da mesi, li ho seguiti da metà in poi, mi hanno spinto, non sono più riuscito a pedalare. Per il ritorno, qualche giorno dopo, mi sono fatto venire a prendere in macchina. Grazie soprattutto a Patrizia. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Attilio Mondellini, vivo a provincia di Ferrara. La storia di domani è la mia e parla di l'amore per lo sport. Questa è la mia storia e io sono qui. Ci sono molti modi per ascoltare Voi Siete Qui. Uno è in diretta ed è quello che state facendo in questo momento. Ma se ve lo siete persi o se proprio non potete ascoltarlo, non disperate, ci sono i podcast. Ringraziamo Franco. 349-238-6666. Adesso la borsa e poi voi... Non c'è la borsa oggi? Come no? Ma c'è sempre, non c'è oggi? Vabbè, pubblicità. Se invece queste cose vi hanno fatto schifo, potete sentire cose come queste. Ogni volta che ci toccava andare alla lavagna perché eravamo interrogati, era veramente un bruttissimo momento. Poi c'era una paura terribile, terribile. E lei aveva messo giù un decalogo, per cui quando entrava lei noi dovevamo essere già tutti seduti. Col quaderno aperto, il libro aperto, non ci doveva essere una mosca che volasse, e così era. Perché sì, è vero che ogni storia è la nostra storia, ma scaricandocela in podcast la possediamo per sempre.